24 mattino. È arrivato il gattone. Miau, ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Io allora, il grande Oscar Giannino, tante cose di cui discutere. Partiamo da De Laurentiis. Stamattina l'Alba ha tirato il sasso contro Infront, che voi forse non saprete cos'è, ma è una cosa molto importante. L'agenzia gestisce i diritti del calcio italiano e lui ha detto: se De Siervo non è in grado, non è capace di guidare una Ferrari e invece di una Ferrari vuol dimostrare che ha una Fiat, ha sbagliato casa. Hai capito? E senti il secondo stacco. Lei sente che il sistema calcio è in crisi? Sono in crisi gli uomini che anche lì conducono le danze di un calcio, quello di Serie A, che è un'industria. Lo conducono ancora con quella mentalità di 20-30 anni fa, che non paga più perché l'Europa è un altro tipo di Europa calcisticamente parlando. Insomma, rumore di piatti rotti? Beh, rumore di piatti rotti, io mi auguro che... Poi sai, De Laurentiis siamo un po' abituati a fare la tara, però mi sembra il tono molto deciso e complimenti di averlo fatto parlare così. Il calcio ha bisogno di un cambio di marcia? Sì. Dalle aste truccate di 2 anni fa, ci fu chi lo scrisse in questo gruppo fin dal primo momento, a il fatto che non si trova un equilibrio tale da poter far gestire, questa è un'industria, ha ragione lui, avrebbe bisogno di criteri di priorità di risorse, di meno retorica, conti migliori e più soldi e stadi delle società, ecco, quindi c'è bisogno di un cambio vero. Infront è una grande macchia di opacità. Allora, hai dei poteri gufotici perché io? Ieri ti sei scagliato violentemente contro la Perosa e oggi che... colpita e affondata, Oscar. Ma il governo la ritira. Il governo la ritira, la notizia, ma guarda, hai un sorriso che devo descrivere proprio, ma non, radioso. Ma non è radioso. Hai parlato la e la logica ogni colpita tanto prevale persino in Italia. Ogni tanto. Infatti hai detto oggi il fondo del pane bianco, povero Angelo, è disperato. Dice: questo è un paese che rimarrà illiberale, antimoderno, antiscientifico. Troppi telesi non lo vorranno cambiare mai. Eccolo, eccolo. Toccate il colpo basso, è un criminale. No, parliamo invece, vero, no, di chiedo scusa, non si fa. Orietta Berti, Orietta Berti, perché vuoi intervenire sul pezzo Gramellini, sì. Orietta Berti, perché tu giustamente, come tutti la mattina, anche tu stamattina ti ho sentito, no, giustamente dicevi: ah, Gramellini scrive su Orietta Berti, però sì, è vero, fa un'apologia e poi gli dà una stoccatina, gli dà una stoccatona perché Gramellini non gli piace il fatto che Orietta Berti abbia vinto fino in Cassazione sul fisco. A me piace un sacco. Anche a me, perché lo Stato non è vero che ha sempre ragione. Certo, a potersi permettere di andare fino alla Cassazione c'è una come Orietta Berti, perché tanti di noi non se lo potrebbero permettere, costa caro. Ma viva Orietta Berti. Gramellini, non storcere il muso, lo Stato non ha sempre ragione. Ma poi forse aveva ragione, non aveva una grande impresa e aveva i suoi collaboratori. Poi, scusami, lasciami dire, molti autonomi ci ascoltano, molti autonomi, il commercialista dice: paghiamo l'IRAP, se no ci tocca andare noi in tribunale e dire che non è vero, che non c'è stabile organizzazione. Lei ci vendica e noi siamo felici. Non ci avrei mai vendica. Detto che Orietta Berti era una bandiera del liberismo. Vai! Allora, l'altra notizia del giorno, entriamo con la voce di Pisapia, quello vero, non quello di Crozza, nel Rosatellum con l'uomo che lo ha inventato. Il Rosatellum iniziale prevedeva 50% di candidati scelti dai cittadini e 50% scelte nelle liste con senza la possibilità di preferenza. Quest'ultima, lo dico caro Maurizio, quest'ultima legge su cui si poteva fare un ragionamento propositivo, oggi è addirittura peggiore di quella proposta alcuni mesi fa. Allora, è bello poter avere l'uomo, il protagonista di questa storia. Buongiorno, Ettore Rosato, capogruppo del PD alla Camera. Cosa risponde subito a Pisapia? Buongiorno a voi, gli ha risposto già il ministro Martina, che era lì con lui. Ma noi abbiamo fatto un mix di maggioritario proporzionale che sia accettabile da un Parlamento dove tutte le forze politiche, prima di tutti quella del Pisapia, aveva detto in commissione che volevano il proporzionale. Abbiamo messo quasi il 40% di maggioritario, 231 collegi, e il resto è scelto su liste e collegi plurinominali proporzionali. Ecco, è un mix che consente governabilità. Sa qual è però il problema grosso, secondo me, uscendo dai tecnicismi, andando proprio alla ciccia, alla sostanza, per chi ci ascolta, è che noi non potremo scegliere neanche un nome. Pensi, se io avessi questa scheda doppia e volessi votare lei, e il partito non la piazza dove è bloccato in lista o nel collegio uninominale, io non posso scegliere nessuno. Con la legge della consulta invece, come sa, una piccola parte residua di possibilità di scelta contro il volere dei capibastone rimane. Perché lo fate così? Perché da 5 leggi guardi, volete fare le liste bloccate che nessuno sceglie niente? Guardi, è esattamente il contrario di quello che dice lei. Il cittadino così sceglie perché i nomi sono scritti sulla scheda. Sì, sono quando, già scritti lei, alla quando, sovietica. No, guardi, intanto se fa una ricognizione in giro per l'Europa, la faccia, visto che mi parla dell'Unione Sovietica, si accorgerà che in nessun paese d'Europa, probabilmente in nessun paese del mondo, si scelgono i deputati con le preferenze, da nessuna parte. Solo da noi la consulta ha previsto la scelta dei deputati e quando io voto per il Partito Democratico e dopo mi trovo un signor X che è stato eletto grazie non magari ai benefici dell'azione politica che ha fatto, ma una rete di conoscenze che ha sul territorio, legittima, sia chiaro, molto legittima. Ma certo, si chiama democrazia la rete di consenso sul territorio. No, ma guardi, la democrazia non è data dal numero di preferenze, la democrazia è data dal numero dei voti. Comunque, se prende i grandi quotidiani di queste settimane, troverà tantissimi articoli che, visto che c'era la legge con le preferenze, ci spiegavano come non dovevano esserci le preferenze, perché le preferenze sono una stortura della democrazia. Però, scusi, noi abbiamo scelto il collegio. Lei ha esordito dicendo, Telese, è l'opposto di quello che dice lei. Esatto. E Telese gli aveva chiesto perché avete levato le preferenze e ci avete invitato, e ha risposto dicendo perché è giusto levare le preferenze. Quindi mi scusi, la confermo. No, io ho detto che è l'opposto di quello che dice lei, nel senso ho detto che non è vero che non c'è democrazia. Se io dico solo questo, poi magari sarà così in Australia e in Belgio, però se io voglio votare, parliamo. No, in Austria, ma se io volessi votare lei, io non la posso votare. Mi devo beccare il selezionato di partito. E tutti Rosatellum, Consultellum, Porcellinum, Porcellum sono tutti così. Tedeschellum, guardi, tutti così. No, il Mattarellum era così. Il Mattarellum, se la nostra coalizione di centrosinistra non candida Rosato, lei non lo può votare. È normale che sia così. Bene, è normale. Rispetto la sua posizione, anche perché dovrebbe dire che i collegi uninominali sono pochi, molto ampi, diventa una specie di nomina anche quello. Io sono di 350.000. Rosato, aiuti a capire chi è a casa, perché oggi sui giornali in quasi tutti i pezzi ci sono, c'è il pezzo che spiega l'ipotesi, c'è un pezzo che dice che fuori e contro, poi ci sono i retroscena, ma in tutti i giornali ci sono due punti comuni che secondo me al lettore di oggi, che non è addetto ai lavori, non sono chiari. Perché tutti dicono che Renzi ha molte perplessità, non viene spiegato come, ma resta questo primo fatto. E il secondo punto, e le chiedo, è collegato al primo oppure no, ci spieghi, è quello di dire, certo però quando si va in aula a voto segreto, quanti franchi tiratori ci saranno. Alcuni giornali dicono, però ci corregga lei, perché questo schema, proprio perché è tutto bloccato nella maggior parte delle candidature, sia di collegio che di listino, e quelli che sono un po' meno vicini ai leader dicono no, questo diminuisce di troppo le mie possibilità di essere eletto, oppure per altre ragioni. Allora, questi due fattori di rischio che tutti sottolineano, le perplessità di Renzi e il rischio nel voto in aula, sono collegati? Che motivi hanno secondo lei? Ma guardi, sono molto collegati, ma non sono collegati per motivi, diciamo, filosofici, sono collegati per motivi molto pratici e molto concreti. La storia ci dimostra che quando siamo andati in aula sul sistema tedesco, dove c'era un accordo dell'80% del Parlamento, al terzo voto segreto l'accordo è saltato perché c'è stato il Movimento 5 Stelle che aveva detto che sosteneva questo impianto, dopodiché ha votato contro. Questa volta non fa parte della convergenza. Mi ha fatto una domanda e io le sto rispondendo. Ripeto, l'emendamento è passato perché il Movimento 5 Stelle, che aveva detto che sosteneva l'impianto, ha votato contro, ma anche perché ci sono stati dei franchi tiratori all'interno dei gruppi di maggioranza, e di maggioranza in senso ampio, cioè di coloro che sostenevano la legge. È evidente che questo pregresso, che è di qualche mese fa, lascia un dubbio se ce la facciamo questa volta. il nostro regolamento è un regolamento arcaico che prevede ancora, e mai si è riusciti a modificarlo, il voto segreto sulla legge elettorale. Questo produce questi tipi di effetti. Dopodiché, perché ci possono essere i voti contrari su un testo? I motivi sono i più svariati. Certamente potrebbe esserci chi preferisce le preferenze al collegio plurinominale, oppure al contrario chi preferiva i collegi alle preferenze, ma c'era anche almeno a giugno l'elemento della paura delle elezioni anticipate, elemento Bene. Che oggi non c'è più. Allora, grazie Rosato, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, resti lì. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Di nuovo Cani e Gatti 24 Mattino, Luca Terese, Oscar Giannino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, 800-2400-24 se volete intervenire su uno dei nostri punti caldi. Oscar, c'è qualche messaggio da leggere? C'è un messaggio che dice che anche la preferenza è democrazia. Nei nostri ascoltatori il ragionamento di Rosato non ha convinto molto, e quindi molti ascoltatori stanno capendo che, insomma, la vera impronta del Rosatellum bis, se passa, è un grande accordo tra i leader del partito. Renzi fa il renitente, dicono alcuni, ma dai giornali ho capito che interessa soprattutto a Berlusconi questa legge. Allora, ieri avevamo la Meloni che presentava la sua festa a Treiu, oggi abbiamo Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siete a voi, partiti molto alti, ho letto oggi una cronaca esilarante di Davide Allegranti sul Foglio del confronto fra il vostro Mussi e D'Alema, che addirittura si è combattuto in punta di dottrina con Mussi, che aveva detto, uscendo dal PD, extra ecclesia nulla, cioè avevano detto a Mussi extra ecclesia nulla salus, se esce dal PD è finita la storia, lo ha rinfacciato a D'Alema ed è spuntato fuori addirittura una citazione di San Cipriano, ce lo spiega? Mussi ha, diciamo, come sempre, il piacere e la capacità di stare alto nella discussione. Devo dire che è stato un passaggio simpatico, fu D'Alema a dire a Mussi, così all'epoca della nascita del PD, Mussi, che allora stava nei DS, io non ero quel partito, rispose mi fermo qui, e D'Alema appunto replicò in quel modo. Alla fine il conduttore del dibattito di Angeli si è ricordato a D'Alema che anche lui era fuori dalla chiesa, che dunque forse qualcosa c'era, e Mussi gli ha riportato la citazione di San Cipriano, diventato santo dopo nel 202 dopo Cristo, che concilio di Cartagine, quindi la sinistra parte da lontano. Ci sarà un motivo per cui alla fine, quando si esce dai partiti di sinistra, sempre a finire in una dottrina ecclesiastica si viene richiamati, è proprio questione di fede. Beh, in questo caso diciamo così che ci sono state diverse uscite, ma anche forse la possibilità di qualche occasione di ritrovo comune, quindi Fratoianni, diciamo, un momento simpatico. Una domanda di attualità, perché qui stiamo sentendo anche, data l'importanza, tutti i candidati alle elezioni in Sicilia, l'accusa che vi viene fatta, voi di Sinistra Italiana sostenete Claudio Fava, non vi sentite responsabili di far perdere tutta la sinistra? Brutale così? No, devo dire la verità, io sono molto attento alla responsabilità per questo, insomma, dopo i sondaggi che sono usciti, adesso vediamo come evolve anche da questo punto di vista la situazione. Vorrei dire a Micari che, insomma, il candidato del PD e di Alfano, che è proprio il caso di evitare di consegnare la Sicilia a destra e ai 5 Stelle. Dunque, visto che sta così in basso, così indietro rispetto a Fava, se si ritirasse per sostenerlo, no, farebbe un'operazione colpo basso, utile, diciamo, ad evitare. Cioè, è lui rischio. Che il voto utile esiste ancora, ma lei lo vuole per Fava. Sa com'è? In Francia è successo qualcosa di simile. Il candidato del Partito Socialista Francese, storica forza al centro dello schieramento politico, Benoît Hamon, peraltro ottima persona, un ottimo programma. Accetto, ha fatto un passo indietro per Mélenchon. A lungo, no, non l'ha fatto, per la verità. A lungo chiesto che Mélenchon si ritirasse a suo favore, perché insomma il Partito Socialista avrebbe certamente avuto un risultato maggiore alle elezioni presidenziali. Poi, tutti sanno come è andata a finire, Hamon si è fermato intorno al 6%. Certo, però poi ha dato indicazioni di voto 20, per Mélenchon. Un po' in ritardo, e alla fine, diciamo, questo ha aiutato la quasi possibilità che la candidata del Front Nazionale arrivasse al ballottaggio. Ecco, insomma, in qualche caso bisogna avere il senso della realtà. Mi pare che in questo momento abbia una forza nella sua proposta politica ed elettorale in Sicilia di tutto rispetto. Quindi almeno, l'altra grande divisione che è su tutti i giornali, lei mi risponderà immagino un po' in politichese, ma ci provo. Pisapia è il vostro leader o no? Essere il leader di quello che nasce a sinistra del PD, respiro, o no? Respiro, prima ancora che finisse la domanda, respiro in sottofondo. Esatto. No, era un sorriso, non era un respiro. Ma per la verità la questione non è politichese, la dico così, ho detto non è il mio leader, ma non per una questione personale. Io credo innanzitutto che le leadership si decidono solo in due modi: o perché qualcuno la impone, perché tutti sono d'accordo con quello che dice, col modo in cui lo dice, con quello che fa e col modo in cui fa le cose, o perché c'è un processo democratico. Ad oggi non siamo in presenza né dell'una né dell'altra cosa, però la verità è questa, è che io credo che il punto centrale sia mettersi d'accordo su quel che si vuol fare. Ecco, io penso che oggi una proposta politica della sinistra italiana possa riconquistare credibilità e forza a due sole condizioni. La prima è quella di rimettere in campo una prospettiva, una piattaforma, delle idee che parlino della vita delle persone. La seconda è avere un profilo chiaro con il Partito Democratico, del Job Act, della Buona Scuola, dello Sblocca Italia, cioè delle politiche concrete che ha fatto e che rivendica, perché il suo segretario, che è stato appena riconfermato, rivendica, devo dire giustamente dal suo punto di vista, le sue politiche. Con questo quindi non si può fare un accordo né prima delle elezioni né dopo le elezioni. La nuova legge elettorale, Rosatellum bis, se passa alla Camera, nasce anche come per mettervi un bastone tra le ruote? Ma questo non lo so, a noi non convince, non la voteremo per due ragioni fondamentali. La prima, perché reintroduce nuovamente una struttura maggioritaria che io credo abbia a che fare, naturalmente in parte per quel che conta la legge elettorale, con problemi della democrazia, con la crisi della democrazia di questo paese. La seconda perché ancora una volta consegna due terzi di Parlamento nominato e senza possibilità di scelta da parte dei cittadini, e questo mi pare un problema serio. Tuttavia, lo voglio dire, anche questo riguarda in parte non la domanda precedente sulla leadership, ma sul che cosa si fa e sul perché lo si fa. Le alleanze, le formule non possono dipendere dalla legge elettorale. Non è che ci si allea o meno perché c'è una legge più o meno coalizionale, ci si allea o meno perché ci sono elementi di condivisione o di differenza politica più o meno rilevanti. Quindi ecco, lei dice, a prescindere dal meccanismo maggioritario che si introduce, non vi alleereste comunque col PD, chiaro? No. Ecco. Grazie. Grazie a Nicola Fratoianni, e ricordate 800 24 00 24, volete intervenire su Oretta Berti e sulla Catalogna? Io mi sono preparato. Viva la Catalogna. Sì, sì, viva la Catalogna. Dai, facciamo l'anarchico catalano che ma ti non viene bene. L'anarchico nel grande mondo. Intervista di uno dei più importanti filosofi europei. Mamma mia. Fernando Savater, che addirittura rimprovera aspetta, di aver usato, ma che mi ammutolisco con questa l'hai già citazione? Letta, l'hai già elogiata. No, non l'ho ancora letta, l'ho tenuta per te. Prima, dice Savater, si può arrivare a una soluzione senza umiliare una delle due parti in causa? E lui risponde, cattivista, bellissimo, no, non si può. L'umiliazione dei secessionisti è un momento di pedagogia. Ma ciò che fanno è incompatibile con la democrazia. Vedi e che dice, cosa ti piace? No, ma senti questo, la rieducazione dato. Violenta. Nessuno lo dice, l'autoritario la Catalogna riceve il doppio e il triplo degli investimenti concessi alle altre regioni. Il doppio e il triplo. Non è vero. Ecco. Gli investimenti li realizza con le risorse proprie. I trasferimenti in proporzione alla popolazione sono inferiori a quelli della Navarra, come già scritto ieri, e a quello delle regioni più povere. Non è così. Mi ha molto colpito Savater perché rimproverare Rajoy di usare il guanto troppo di velluto, troppo morbido, perché addirittura lui vorrebbe, che ne so, deportarli alla Cayenne, dall'idea di quanto pesa ancora l'idea dell'Hispanidad, capisci? Gli stati nazionali, figli del romanticismo, hanno prodotto centinaia di milioni di vittime. Per favore, andate oltre. Nella globalizzazione si vive con forti autonomie che si proiettano nel mondo, di economie spazializzate, di chi è più bravo a governarsi e a trarre risorse. Le costruzioni che non si adeguano a questo sono ferraglia del passato. Bene, ma allora torniamo al punto di ieri per spiegarlo. Gli stati-nazione hanno senso perché sono retti dalla storia, da un sistema di solidarietà, da una matrice comune culturale. Sì. Purtroppo siamo tutti italiani, lo sono i napoletani, lo sono. Però no, nella loro organizzazione devono evolvere concedendo maggiore autonomia. Sì, ma tu lo vuoi far rimanere fermo al 1865 l'idea dello Stato nazionale? La televisione Dai. È unica, la cultura è comune. Purtroppo. Ridiamo per Troisi, non è vero che la cultura ridiamo è per Gino Bramieri, siamo l'Italia, non è che possiamo fare le piccole patrie, ognuno con il suo conto in banca. Di autonomie più forti. Siete troppo figli di una retorica risorgimental nazionalitaria. Ma rispondo di me, non coinvolge gli altri ascoltatori. Ma no, è un fenomeno nazionale, non lo dico mica per deriderlo, al contrario, io so che sono in minoranza. Voglio dire, sono qua, sono 9 anni che vedo gli sms che arrivano agli ascoltatori, 9 anni sono fa, 5 anni a fa. A tuo favore, bravo Giannino. Non c'era questa retorica nazional patriottarda. Bravo Giannino, Basso Telese, sei tu che sei popolare. Ma non sono popolare, ma non arruffo il pelo del popolo. Figurati, la politica e gli intellettuali a maggioranza la pensano come te. Dicono che questo è un fenomeno locale di qualche strumentalizzatore. Lo Stato è un concetto obsoleto, bisogna aggregare. Esatto, lo Stato è vero che o cambia il suo radicamento, la sua definizione, o è obsoleto. Perché siete tutti hegeliani? Questo è il punto. Hegeliani. Certo, lo Stato etico, lo Stato come spirito, capisci? La cifra lunga della continuità repubblicana italiana col fascismo è, che cosa? L'idealismo, un spirito, questa roba qua. È la storia. È un disastro. Noi abbiamo avuto 2 guerre, abbiamo pagato un tributo di sangue. Fusaro ti darebbe ragione. Mio nonno, era, lo dicevamo ieri qui in radio, una discussione molto bella, che sono così, mio nonno era a Caporetto. Sì. Mio nonno ha visto i corpi straziati, ha visto il disastro degli stati nazionali. E non era retorica il Piave, capisci? Era un sentimento della storia. È abbiamo tenuto insieme questo paese quando c'erano le armate naziste, dall'ideologia degli stati sommarie, ma difendi quelle cosa difendi? Non è romanticismo, questo è storia. No, giù il cappello. Il disastro. No, io di fronte alle 2 guerre mondiali inflitte dagli stati nazionali europei al mondo non mi levo il cappello. Assolutamente adesso no. Adesso non è il nazifascismo, ma sono gli stati nazionali. Ma guarda che sei curioso. Sono i grandi imperi e l'idea degli stati nazionali. Sì. Ma che cos'è che provoca la prima guerra mondiale? Oi, ma scherziamo, facciamo sul serio. Allora, fra poco un approfondimento divertente, perché avevamo qui parlato bene per una volta d'accordo io e Oscar di un film, Dunkirk. Sì. Un senatore della Repubblica, appassionato di storia e storico, Augello, ha detto no, qui devo rimettere a posto le cose. Fra un secondo vi divertirà. Mattino. Siamo di fronte a un gigantesco disastro militare. È arrivata la chiamata. Dobbiamo andare a Dunkerque. Lo sai dove andiamo? In guerra, George. La nave sta per salpare. State giù. Finora! Mobilitano le imbarcazioni civili. Civili? Servono i cacciatorpediniere. Io non ci torno. Moriremo là. E allora, eccoci, vi segnalo fra l'altro un pezzo di Fofi su Internazionale che attacca il film da cinefilo e da storico, dicendo ci sono 10 film più belli su Dunkerque. Lo spiana più che attacca. Lo distrugge, dice che è un fumettone, un polpettone osceno che non sceglie e non ha neanche tensione narrativa. Augello, incontrato al Senato, ha messo il carico, ha detto, buongiorno Augello. Buongiorno a tutti. Allora, senatore di Idea, può ripetere, come dire, l'atto d'accusa molto circostanziato che lei ha fatto su Dunkerque? Ma io semplicemente ho detto che Dunkerque, rispetto a produzioni relativamente recenti sulla Seconda Guerra Mondiale, è un film, faccio il paragone con Salvato il Soldato Ryan, insomma, che si ritrae da una rappresentazione realistica di quanto accaduto, oltre ad esserci alcuna ingenuità, diciamo, ma questo capita nei film di guerra, insomma, nell'utilizzo di alcuni mezzi e di alcune uniformi. Ma al di là di questo, che se ovviamente il grande pubblico non interessa, è un film assolutamente lontano dalla realtà che vorrebbe rappresentare. Intanto dice alcuni elementi di verosimiglianza, i carri armati non sono quelli giusti, no? Sì, ci sono alcuni elementi. Tipo quali sono? Ma lì ci sono alcuni mezzi che vengono utilizzati nelle prime scene, che in realtà sono entrati in dotazione all'esercito britannico due anni dopo. E va bene, però la sostanza di quello che contesta, e qui arriviamo a Oscar, non fu un'eroica resistenza, non fu un'eroica salvazione, ma fu una fuga, diciamo, in rotta, e si salvarono solo perché risparmiati dai tedeschi. Risparmiati. Beh, questo lo dice la storiografia, non è che lo dica io. I tedeschi arrestarono, notoriamente, i tedeschi bloccarono le divisioni corazzate che avevano circondato la Dunkerque, era una sacca a tutti gli effetti, lo fecero per due ragioni, perché cioè, tutto per risparmiare i mezzi che comunque erano stati allogorati dalla campagna vittoriosa, no? Da una campagna per quanto vittoriosa comunque logorante per i mezzi, certo. Anche perché ricordiamoci che i carri armati del 1940 non avevano l'affidabilità di successo, e poi anche perché la speranza, insomma, notoriamente di Hitler era che i britannici rimanessero gratis, si aprisse una trattativa, insomma, si evitasse lo scontro, insomma. E poi perché nella logica della guerra dei materiali quelle divisioni erano formalmente disarticolate, perché erano uomini che tornavano, e quindi, come abbandonato, ma no, ma noi però scusi, però a me interessa capire una cosa, perché noi quando Luca vide il film e ne parlammo, fummo concordi nel sottolineare un punto, e su questo che ci interessa la sua opinione. Noi dicemmo quella che è sicuramente una rotta militare, avevano perso i britannici e anche i 100.000 francesi che poi furono portati oltre Manica, però hanno vissuto, interpretato, non nel film, nella storia, da subito quella rotta, non come l'Italia Caporetto, ma come un punto fondamentale di una mitopoiesi, cioè di una costruzione epica di vittoria futura, di resistenza. Ecco, questo che fu evidente fin da chi sfoglia i giornali del giorno dopo, e quando è in corso l'epica delle piccole navi, perché non c'avevano neanche navi, quindi partono con i motoscafi, imbarcano chiunque e si muove un pezzo di cuore britannico. Ecco, questa capacità di vivere anche le sconfitte come pezzi di una strategia positiva, e noi ce l'abbiamo molto meno. Questo dicevamo, su questo lei non è d'accordo? Ma sono d'accordo, nel senso che lì fu realizzata molto più semplicemente una grande operazione propagandistica. La guerra si è vinta anche con la propaganda. Il mito della sconfitta che diventa non vittoria. Non è una critica, è una constatazione. Cioè, lì fu molto abile Churchill a rappresentare come un grande salvataggio un'operazione che poi lui aveva fatto anche abbastanza, se vogliamo, cinicamente. Non è che non c'avevano le navi non le misero a rischio e mandarono le piccole navi, perché, perché purtroppo ships potevano servire in caso di immediato attacco nazista, è così. Però contemporaneamente bisogna dire anche un'altra cosa, che in realtà i britannici ebbero, diciamo, anche il loro caporetto e vissero male, insomma, accadde a Singapore, quello che accadde, per carità, altrove. Lì ci fu una specie di caporetto occulta, perché quei reparti che furono rimpatriati abbastanza fortunosamente a Dunkerque, nel contesto che abbiamo detto, furono poi però molto attenzionati. Gli inglesi analizzarono molto attentamente cosa fosse accaduto. E non li utilizzarono più, erano traumatizzati. E non li utilizzarono praticamente fino al 44. Fino al 44, sì. Quando perché erano ricostituiti e completamente rinati come dottrina, impianto e leadership. No, è tutto vero. Ricordiamoci che tutti i reparti di punta, diciamo, dell'esercito britannico, per esempio in Africa, erano sudafricani, neozelandesi, Francia Libera e via discorrendo. Le colonne. Proprio perché il trauma della campagna del 40, la vittoria della campagna tedesca del 40 restava, e c'era il dubbio che non si fossero, loro ebbero fortemente il dubbio che ebbero, diciamo, i comandi italiani dopo Caporetto, cioè che non si fossero comportati bene. Però insomma, allora, lei stesso riconosce che Churchill fin dal primo momento fu un abile interprete. La guerra si fa anche con l'operazione psicologica, anzi, fondamentale. Era una chicca. Ringraziamo Augello. Per chi, gli ascoltatori raffinati di Radio 24, andatevi a vedere Dunkerque del 58, e quel film era un film tutto contro la ricostruzione militare. Allora, telefonate, Walter, da dove chiami? Io chiamo da Modena. Vai. Complimenti a te e a Giannino, siete molto bravi ed è una trasmissione molto interessante. Intervengo a proposito della legge elettorale. Si parla molto poco, ma se io do il voto, diciamo, ad Oscar Giannino, che compete nell'agone politico sotto un certo simbolo, a me poi non sta bene che sia un patrimonio che lui si porta dietro e va in un'altra compagine. Ah, a parte i transumanti. Esattamente, ma penso che sia una cosa piuttosto importante questa qui. Purtroppo in costruzione lo sa, c'è la, io dico purtroppo perché non sono d'accordo, ma detto questo c'è la proibizione del vincolo di mandato. Io sono dell'idea che questo si risolve nei regolamenti parlamentari, chi cambia gruppo lo può cambiare, ma se cambia gruppo non può da quelli eletti direttamente dai partiti che si sono presentati alle elezioni, primo. Secondo, si va tutti nel gruppo misto ma si rinuncia ai benefici finanziari e alle segretarie degli altri gruppi. Queste due cose farebbero riflettere molto i transumanti. Questa è la mia idea di fondo. Giuseppe da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Saluto Oscar Giannino e Luca Telese. Buongiorno. Telefono perché mi... Pronto, mi sente? Dica. Sì. Sì, telefono, buongiorno a Oscar Giannino e Luca Telese, ripeto. Sì. Telefono perché mi fa specie che il dottor Telese, notoriamente di sinistra, diventi oggi paladino della nazione italiana con la storia con la S maiuscola, nel discorso che ha fatto un 5 minuti fa. Sulla Catalogna, insomma. Sulla Catalogna, esatto. E se, notoriamente di sinistra, mi sembrava di sentire uno di AN, mi scusi tra virgolette, ecco. Ah, beh, proviamo a spiegarla così. Il grande problema, il tema forte di cui stiamo discutendo è chi decide. Ci eravamo arrivati ieri, no? Poi si possono avere idee diverse, ma il problema è quello della sovranità. Quando decidi di andartene, chi è che decide questa cosa? Allora, nelle ultime elezioni in cui si è votato in Catalogna, ricorderete forse che i partiti indipendentisti erano, in diversa forma, erano il 48%, ma non tutti erano per la secessione, per l'autonomia, per la separazione da Madrid. Quindi più o meno in Catalogna, l'ultima volta che si è votato, il 40% di queste forze erano per la secessione. Ma io faccio un ragionamento al contrario. Ma infatti chiedevano di fare un referendum. Il 52%. Cioè, di far votare. Qual è la percentuale, cioè c'è un quorum, c'è una soglia? Perché se basta il 51%, il 49% è una minoranza così forte che non può essere conculcata, diciamo. Aspetta, la Spagna, il motivo per cui stanno arrestando, dice non sono i catalani che possono decidere della propria determinazione, lo decide tutta la Spagna, come se tra due coniugi la decisione di divorziare la dovesse prendere un terzo, capisci che no? Questa roba qua è il punto della rappresentanza, chi decide, che giustamente io lo accetto, condivido, è la questione centrale quella che hai posto tu. Gli spagnoli da Madrid dicono voi non potete decidere di voi, è come se noi fossimo sposati e tu dici io voglio divorziare, che io te rispondo, Italia non vorrei, puoi deciderlo tu. Personalmente vorrei togliere l'autonomia sia alla Sicilia che al Trentino Alto Adige. Io penso non possiamo pagare le che case, non ha senso popolo, tenerla per loro in quel modo e per gli altri nessuno. Perché la storia evolve, cioè, capisci? Ma non perché voglio riaccentrare problema. Tutto a Roma, sì. Questo mai, guarda, mai. Bene, allora i cani e i gatti hanno finito di abbaiare, di ringhiare, di graffiare anche oggi. Noi torniamo domani, come sempre, alla stessa ora. Ciao! Ciao! Ciao papà, sei obeso.